get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che tra poco ascolterete sarà la nostra 327esima trasmissione. Chi vi sta parlando è Caterina e con me in radio c'è Rosina. Buonasera. Allora, come immagino e come speriamo veramente sappiate, questo sabato 19 inizierà una splendida mini rassegna cinematografica che noi del coordinamento Lesbiche Romane abbiamo voluto organizzare in collaborazione con Immaginaria. Questa mini rassegna si terrà all'interno della Casa Internazionale delle Donne e per un approfondimento e perché no, per invogliarvi a venire stasera parleremo con due rappresentanti di Immaginaria. Elena Rossi, con la quale imposteremo tra poco un collegamento telefonico in diretta, e Deborah Guma, con la quale abbiamo invece registrato la conversazione perché i suoi impegni lavorativi l'hanno resa non disponibile purtroppo questa sera. Allora, io direi subito che a questo punto ascoltiamo un brano musicale, siccome in inglese do la parola a Rosina che vi direi il titolo e poi ci sentiamo dopo. Allora ascolteremo What's Going On delle Four Non Blondes. my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. E allora rieccoci nuovamente in diretta, come avete sentito prima dalla voce di Caterina, stasera parleremo di questa rassegna cinematografica che si terrà presso la Casa Internazionale delle Donne, il cui titolo è Sguardi di diverso genere. Abbiamo deciso di chiamare così questo progetto, questo mini progetto, che appunto organizzeremo assieme alle donne di Immaginaria. E lo facciamo perché nel corso degli anni abbiamo sempre avuto un interesse particolare per questo tipo di linguaggio, il linguaggio filmico, e soprattutto per i messaggi che arrivano alle donne attraverso la pellicola. Probabilmente partiremo da presupposti anche diversi rispetto alle compagne dell'Associazione Culturale Lesbica Femminista Visibilia, che lo ricordiamo si è costituita a Bologna nel 1989, che è stata ideatrice di Immaginaria. Lo ricordiamo perché è sempre bene ricordare le grandi imprese. Immaginaria è stato il Festival Internazionale del Cinema delle Donne Ribelli, Lesbiche e Centriche, ed è stato realizzato annualmente a partire dal 1993 fino alla sua ultima edizione, che si è tenuta nel 2005. Anche noi nel nostro piccolo, come gruppo, come coordinamento Lesbiche Romane, ci siamo cimentate, non voglio dire in qualcosa di analogo, perché effettivamente non esageriamo, i livelli sono molto diversi, ma insomma abbiamo ideato su Roma una rassegna cinematografica che si chiamava Les Bollywood, e attraverso la quale abbiamo portato ad un pubblico di sole donne, come nostra consuetudine, una lunga serie di episodi cinematografici, di film a tematica lesbica, alla quale hanno partecipato moltissime donne. C'è stata un'ampia partecipazione. Les Bollywood è stato programmato dal 2002 fino al 2008, e a volte anche con la proiezione di lavori concordati proprio con le donne del Festival di Immaginaria. Questo percorso abbiamo voluto in qualche modo idealmente riprendere o riallacciare un filo di collaborazione proprio con le compagne, con le donne di Immaginaria, perché appunto ci sembrava che per presentare dei nuovi film, insomma, per seguire questo filo rosso ideale, non potessero esserci delle compagne di viaggio migliori di loro. E prima abbiamo ricordato che il Festival Internazionale del Cinema delle Donne Ribelli, Lesbiche e Eccentriche ha realizzato la sua ultima edizione nel 2005, però ci preme anche ricordare che la staff ha continuato a portare avanti negli anni un grande lavoro di conoscenza, di approfondimento e di divulgazione dell'universo cinematografico delle donne, e vedremo poi attraverso le interviste con Elena e con Deborah in che modo questo lavoro ha continuato ad essere messo in atto nonostante il Festival Immaginaria sia stato poi, insomma, si sia chiuso. E adesso voglio comunque sottolineare che Sguardi di diverso genere si propone, così insomma come tutti gli altri lavori sia di Les Bollywood che di Immaginaria stessa, di appunto portare al pubblico uno sguardo appunto diverso, così come si evince dal titolo. Sono lavori di registe indipendenti e li potremo vedere qui a Roma presso la Casa Internazionale delle Donne in questa appunto mini rassegna che sarà distribuita su tre sabati fra marzo ed aprile. Vi do il dettaglio delle date. Cominceremo appunto il 19 marzo, che è questo sabato prossimo, con la proiezione di short fiction, quindi sono dei corti prodotti in Canada, in Cile, in Israele e negli Stati Uniti. La durata totale della proiezione sarà di 58 minuti e presenterà Cristina Zanetti, mentre il 2 aprile ci sarà la proiezione del documentario Born to Fly, Elizabeth Streb vs Gravity, di Catherine Gund, un film del 2013 statunitense che dura 82 minuti, e lo presenterà per noi Deborah Guma. L'ultima data in programmazione sarà il 16 di aprile e si proietterà una fiction Margarita di Dominique Cardona e Laurie Colbert, Canada 2012. Si tratta di un lungometraggio di 91 minuti che sarà appunto presentato da Elena Rossi, con la quale avremo il piacere di parlare fra brevissimo, ma non prima di aver ascoltato un brano musicale. Quindi ascoltiamo la voce di Alanis Morissette. Eccola! Allora, eccoci qui di nuovo e dovrebbe essere con noi anche Elena, se ho fatto tutti i collegamenti giusti. Sì, ci sei? Vai, meno male. Ciao Elena, allora intanto grazie di essere qui con noi questa sera. È sempre bello pensare che siamo riuscite di nuovo ad organizzare qualcosa insieme. Infatti, sono molto felice anch'io. Infatti, sì, è una gioia condivisa, condivisibile. E spero che questa nostra gioia possa essere trasmessa anche alle donne, che mi auguro vengano numerose a questa nostra iniziativa. Allora, io partirei subito con la prima domanda. Allora, sappiamo che tu, Cristina e Deborah, siete donne sfaccettate e multiformi. Come riuscite a coniugare il vostro lato artistico con l'impegno a fare il festival? Bella domanda. Dunque, abbiamo tutte un po' una passione artistica, no? Io scrivo teatro e poesia. Cristina scrive romanzi, Deborah è un'artista della tecnologia, così. E come li coniughiamo? Beh, intanto il linguaggio del cinema assomiglia molto al linguaggio artistico, anzi direi che è un linguaggio artistico, no? Mm-hmm. E quindi, anche se questi non sono, diciamo, i nostri prodotti personali, sono comunque un modo in cui possiamo avere soddisfazione, ci danno soddisfazione per la creatività che abbiamo dentro, no? Certo. Poi ovviamente senza dimenticare il fatto che i miei testi teatrali, guarda caso, hanno avuto le loro prime rappresentazioni proprio a Immaginaria, non ce lo dimentichiamo, no? Certo, certo. Immaginaria non era soltanto il Festival del Cinema, ma c'erano anche appunto spettacoli teatrali, mostre artistiche, fotografiche, concerti, eccetera eccetera, quindi insomma era una cosa completa, l'arte in senso completo. E poi niente, io credo che la carica artistica sia anche parte proprio della nostra militanza, assolutamente, no? Perché sì, è qualcosa che ti amplia gli orizzonti, che ti fa sentire in contatto con il mondo, c'è un senso che ti riempie nel fare questo lavoro. Oddio, io non sono un artista, però mi viene da pensare che se fossi in grado di esprimermi attraverso un canale artistico, probabilmente mi piacerebbe farlo esprimendo tutta la mia realtà, che magari non vedo rappresentata altrimenti, no? Quindi è una forma, certo, anche di portare all'esterno un qualcosa di molto personale. Quindi certo, capisco cosa vuoi dire, certo. Ho molta invidia poi per questa tua capacità, devo essere sincera. No, e poi è anche una cosa molto gratificante, no? Perché appunto ci sono magari delle filmmakers che ti ringraziano perché chiedi loro i film. Ci sono delle registe fantastiche che abbiamo fatto venire in Italia. Ci sono banalmente anche le donne del pubblico, no? Che sono contente, ecco, quando alla fine di un film c'è un applauso, voglio dire, una cosa anche molto gratificante per noi, insomma, certo, vuol dire che siamo riusciti a portare qualcosa che ha fatto piacere, no? Certo, certo. Senti, a questo punto mi viene spontanea un'altra domanda, no? Qual è il tuo ruolo nell'organizzazione del festival? Cioè, metti a frutto questa tua vena artistica in qualche modo o è tutt'altro? Dunque, intanto, vabbè, piccola premessa, come sapete siamo tre eroiche e un po' matte, sì, che portiamo avanti questo progetto, cioè Cristina, conosciamo il problema, Deborah e io, sì. Ecco, allora, Cristina e Deborah diciamo preliminarmente si occupano di contattare registe e distribuzioni, poi siamo tutte programmatrici, nel senso che tutte e tre visioniamo e selezioniamo i film, e soprattutto io faccio la traduttrice. Vabbè, all'inizio, quando abbiamo cominciato con Immaginaria, facevo il doppiaggio ancora in simultanea. In diretta, me lo ricordo. Ce lo ricordiamo bene. Lo ricordate, appunto. Bei tempi. E poi veramente Abbiamo passato i sottotitoli prima al computer e poi adesso direttamente sui DVD. Ecco, non pensiate che sia una cosa facile, cioè dietro c'è un lavoro lungo, accurato, che comporta vedere e rivedere i film tantissime volte, a volte documentarsi su realtà sconosciute, insomma è un lavoro molto impegnativo. Quello che mi piace, che mi dà appunto soddisfazione anche, come mi chiedevi, dal punto di vista artistico, è proprio il fatto di essere una piccola parte di questo meccanismo, ma comunque di rendere possibile alle lesbiche italiane la fruizione di film che, no, vengono altrimenti da non sarebbero paesi, certo. Che altrimenti non potrebbero vedere, certo, o non potrebbero, certo, capire, eccetera. Forse non lo abbiamo detto, magari mi è sfuggito perché io ovviamente sono una donna molto distratta, ma chiaramente stiamo parlando del vostro nuovo progetto, del vostro nuovo lavoro, il festival del Fuorisalone. Non so se l'avevamo già detto. Ne parliamo dopo, casomai. Certo, stanno lavorando adesso, certo, in campagna. Non è la nostra mini rassegna di questa parlando. Assolutamente. Pertanto per chiarezza. Dopo magari ne parlo dei nostri progetti. Certamente. Sì. Sì. Senti, che senso ha oggi per te lavorare ancora sul cinema delle donne e delle lesbiche? Secondo me il cinema è un grandissimo riflettore della realtà contemporanea. Quindi, certo, le cose sono cambiate nel tempo, nel senso che abbiamo visto anche all'interno della produzione lesbica e della produzione femminista, nel corso degli anni abbiamo visto come le tematiche siano cambiate, si siano sviluppate, no? Iniziando, diciamo, dall'inizio di Immaginaria, siamo passate da film che parlavano di, fondamentalmente, ora per dire in generale, appunto, di donne che magari partivano da una realtà eterosessuale con fatica, problemi, contrasti, diventavano lesbiche, arrivavano a vivere questi rapporti con gioia, a film ora più recenti in cui magari è più facile dichiararsi, o comunque, ecco, cioè l'identità lesbica ovviamente riceve sempre una qualche opposizione, però in generale diciamo che le donne hanno più forza, più coraggio di essere visibili, di compiere anche le loro scelte. Poi ci sono film in cui si mostrano famiglie, no? Lesbiche con figli, i problemi che nascono da queste nuove realtà, rapporti con ex partner, figli adolescenti ribelli, eccetera eccetera, e poi tutte le sfaccettature ovviamente dell'identità di genere, cioè sono questioni diciamo più contemporanee. Certo. Quindi secondo me la risposta alla domanda è che ha ancora un gran senso, perché il cinema è uno strumento di comunicazione fortissimo ed è importante, no? Secondo me fare in modo che possiamo continuare a rifletterci nelle storie lesbiche, che possiamo desiderare e sognare, certo, qualcosa che ci corrisponde. Quindi secondo me c'è ancora un grande bisogno di lavorarci. Sì, proprio rispetto a questo mi viene da fare questa considerazione, che in quest'ultimo anno sono usciti dalle grandi catene di distribuzione ben tre film che parlano di lesbismo. Uno addirittura tutto italiano, che è Io e Lei, poi c'è Freeheld e Carol, dal meraviglioso libro di Patricia Highsmith. Cosa c'è di diverso secondo te tra il mainstream e la produzione indipendente? Dunque, questi tre film, Io e Lei di Maria Sole Togliazzi, Freeheld di un uomo, Peter Sollett, e Carol di un altro uomo gay, Todd Haynes, diciamo che anche il mainstream appunto comincia a portare in scena delle storie lesbiche, quindi secondo me ben vengano, soprattutto perché presentano finalmente delle immagini abbastanza positive, no? Soprattutto sono film con delle attrici bellissime, lo possiamo dire? Sì, assolutamente sì. Possiamo che dirlo. Meritano di andarsi a vista solo per quello. Possiamo dire che Kate Blanchett, la schiena grandissimi più bella. Mezzi, possiamo dire anche questo, e portano sul grande schermo le nostre storie, quindi perché no? No? Va benissimo. Se mi chiedi quali sono le differenze, allora intanto una l'ho già detta, sicuramente i mezzi, che nella produzione indipendente sono inferiori. Anche se va detto che nel corso degli ultimi anni si è anche visto come la produzione indipendente sia cresciuta enormemente per quanto riguarda proprio la qualità, insomma, i prodotti che adesso presentiamo ai nostri festival sono di ottima qualità. Poi un'altra differenza che mi viene in mente, ecco, proprio rispetto anche a magari posso dire due parole su Io e Lei della Tognazzi, no? Cioè il cinema, quel film lì, insomma, pretende, secondo me, di essere ambientato ai nostri giorni, ma è completamente privo di un contesto. Sì. Cioè, non ci sono riferimenti alla realtà omosessuale, non c'è un'immagine di un gay pride, potevano farla passare sulla televisione, non c'è una discussione sui diritti civili, no? Non è contestualizzato, diciamo, alla realtà che c'è, esatto, oggi. Esatto. Mentre il cinema indipendente, appunto, è contestualizzato, cioè è sempre calato all'interno di una realtà fortemente contestualizzata. Certo. E poi un'altra differenza grandissima, che spero che continui a esserci, anche se questa qua un pochino la vedo, diciamo, ogni tanto scomparire, è che i nostri film, i film che noi proiettiamo nei festival, non si esauriscono nella normalizzazione. Ah, beh, cioè, certo. Questi film mostrano anche le differenze, non solo l'uguaglianza, perché, certo, insomma, l'uguaglianza poi alla fine, no? E parlo sempre un po' di io e lei, si riduce a un appiattimento. Invece i film della produzione indipendente mostrano anche altre forme di rapporti e di intimità, oltre a quelle, appunto, normative o, se vogliamo, imitative dell'eterosessualità, no? Che cambiano i soggetti, ma la cosa è la stessa, insomma, certo. Già, e se ci normalizzano troppo, poi la normalizzazione, l'esito è la cancellazione, esatto, quindi dobbiamo stare attenti. Omologazione e cancellazione. Effettivamente abbiamo anche discusso qui in radio di questo film di Io e Lei, sì. Mi sembra che la regista avesse detto che lei era intenzionata a descrivere una storia d'amore, poi non aveva importanza se erano due donne le protagoniste oppure no. In realtà, esatto, noi pensiamo sempre che sia invece molto importante che i soggetti che si esprimono. Esatto. Infatti il film risulterebbe assolutamente uguale se al posto, esatto, delle due donne ci fossero un uomo e una donna. Assolutamente, esatto, sì. Per questo noi diciamo sempre che è opportuno che le lesbiche parlino per se stesse, non perché altri non possano parlare delle lesbiche, sì, però insomma non parlare mai di, sì, per qualcuno se non hai camminato nelle sue scarpe. Questa, vabbè, sono perfettamente d'accordo. Ti ringrazio, Elena, sono felice di questa tua affermazione. Assolutamente d'accordo, sì. Dunque, certo, a questo punto io, Elena, ti chiederei di raccontarci un po' che cosa invece sarà questa mini rassegna romana. Sì, sì. Allora, senza scoprire troppo le carte, vorrei, certo, che le donne venissero con grande curiosità a vederli tutti. Copiose e copione. Come avete detto voi, la prima giornata, quella del 19 marzo, è quella dei corti presentati da Cristina, appunto, e sono un po' un mix, diciamo, di serio e faceto. Sì. ci sono un film israeliano su due teenager che vanno a giro di notte a Tel Aviv, Reality Check. Sì. C'è La Ducia, questo film cileno su due donne che si stanno lasciando, appunto hanno questa ultima conversazione all'interno di un bagno. E poi ci sono invece cose molto più comiche, che sono The First Date, Storm Cloud e Gay Women Will Marry Your Boyfriend, molto divertente, con questa minaccia che le donne lesbiche fanno alle donne etero di sposare i loro fidanzati se non passa la legge a favore del matrimonio omosessuale, quindi state attente perché potrebbe finire male. Si attaglia a questa nostra realtà contemporanea anche qui nel nostro paese. Niente, poi quello, il documentario del 2 aprile che presenterà Deborah, Born to Fly, è bellissimo, appunto, come dicevate, questo documentario su Elizabeth Streb, questa, sì, sua compagnia, la Streb Extreme Action Company, che è una compagnia di, non di ballerine quanto di atlete e, sì, anche atleti volanti, acrobatici, spericolati, direi, temerari, proprio, che sfidano tutti i limiti del peso, tutte le leggi della natura, praticamente le forze della fisica, esatto. Sì, sì, sì. E molto molto veramente affascinante. E poi l'ultima giornata, quando vengo io, il 16 aprile, Margherita, questo lungometraggio. Questa è la pronuncia che noi abbiamo, questa Margherita, sì, cioè, sì, proprio lei è Margherita. Margherita. È una immigrata messicana che vive in Canada illegalmente. Sì. e sta a servizio di una coppia di professionisti molto affermati che hanno una figlia, e lei fa la babysitter a questa figlia adolescente. Mm. Ed è lesbica, Margherita. Poi c'è un incidente, diciamo, causato da un po' una crisi economica, un po' una crisi, appunto, un incidente di bici-macchina, mm-hmm. e quindi succede un problema per cui Margherita sembra destinata ad andarsene, mm-hmm. ma e a tornarsene in Messico, ma ovviamente... Però poi venite a vedere il film per capire che cosa succede nel film. Esatto. Senti, io... No, è un film veramente molto divertente, molto carino, che piacerà sicuramente. Senti, io ti volevo fare un'altra domanda che mi è venuta adesso ascoltando la tipologia delle proiezioni che hai appena enunciato. Io ricordo quando venivo ad Immaginaria c'erano dei filmati sperimentali che erano un po', come dire, un po' tanto sopra le righe a volte, no? Allora io in questo pacchetto che voi avete proposto di proiettare qui da noi a Roma non vedo sperimentali. Allora volevo sapere da te, proprio banalmente, se è un'evoluzione di quelle che dicevi prima tu, che non c'è bisogno di fare sperimentali perché possiamo tranquillamente raccontare le nostre realtà, o se perché proprio non li fanno più per qualche altro motivo questi sperimentali, che erano un po' particolari da vedere. Comunque, capito? Sì, diciamo che la cosa non è che l'amassi molto, ecco, devo confessare. Ma senti, io credo questa domanda forse la potete anche rigirare a Cristina, che è la più appassionata di noi tre, credo, al genere dello sperimentale. Allora, però comunque che... ha detto che c'erano degli sperimentali anche molto belli, molto artistici, e ce ne sono stati anche negli anni, anche più di recente, insomma. Però è vero, è un genere che negli ultimi anni tende un pochino ad assottigliarsi. E quindi è più difficile, ecco, ora trovare degli sperimentali belli. Sì. Ok, senti, adesso il tempo purtroppo è tiranno, però io un'ultima domanda te la voglio fare. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto sarebbe rifare Immaginaria. Bene. Un festival dedicato unicamente alle donne. Certo. Ma guarda, se quello... noi l'appoggiamo questa tua questo tuo sogno. Sì. No, perché quello, appunto, di cui sì, almeno noi sentiamo più la nostalgia, è che proprio Immaginaria era, no, un'occasione di ritrovarsi con tutta la comunità. Stavi a Bologna 4 giorni, rivedevi tutte le amiche, e poi quando tornavi a casa c'avevi quello che io chiamo l'etero jet lag, no? Che campavi di rendita estrema a rientrare nel mondo di tutti i giorni. Certo. E niente, poi dopo la fine di Immaginaria, che purtroppo, appunto, come sapete, quella fase si è conclusa, sì. Vabbè, sia con il tracollo economico, sia soprattutto con la morte di Marina Genovese, certo. E noi comunque abbiamo cercato di portare avanti il nome di Immaginaria aprendo varie collaborazioni, appunto quella con voi, che anzi ringrazio infinitamente tutte le compagne del CLR che ci avete sempre appoggiato con grande affetto. Era il minimo che potessimo fare. Grazie. Prego. E poi a Milano abbiamo in realtà due collaborazioni aperte, perché oltre a quella del Fuori Salone, adesso da 2 anni collaboriamo anche con il Mix, sì. Portando una quota di film lesbici discreta, insomma, importante. Mm-hmm. Cioè, i tempi ovviamente sono cambiati, ma non sono cambiati i nostri principi, i nostri criteri di fare cinema lesbico. Certo. E poi forse apriremo anche collaborazione con Firenze, insomma ci muoviamo un po' siamo in movimento a macchia di ghepardo, a macchia di leopardo. Perfetto. Così. Elena, noi ti ringraziamo infinitamente per aver partecipato a questa nostra trasmissione, averci raccontato, insomma, lo stato dell'arte. E ma niente, grazie a voi per questa possibilità. Grazie, ci vedremo quindi con te il 16 di aprile. Ci vediamo prestissimo il 16. Intanto un appello a tutte le donne, venite ascoltando. Certo. Se potete, mi raccomando, venite, anzi fate in modo di poter venire, e portate pure qualche amica, insomma. E portate le amiche, sì. Esatto. Come si suol dire, venite copiose e copione, e quindi niente, esatto. Allora a questo punto ti salutiamo, ti abbracciamo e ti aspettiamo a Roma il 16 di aprile, e adesso sì. Manderemo una canzone, Sharon Van Etten con I Know, e mentre aspettiamo di ascoltare il contributo di Deborah. Grazie ancora Elena e buona serata. Ciao Elena. Grazie ciao. A voi, ciao. Un bacio, a presto, bacio, ciao. A presto. Ciao. Thank you. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta. Alcune indicazioni per contattarci: con una mail a contatti@clrbp.it, oppure visitando la nostra pagina Facebook del CLR, oppure visitando il nostro sito www.clrbp.it. Allora, intanto grazie per aver accettato di partecipare a questa nostra trasmissione, anche se sappiamo che i tuoi impegni di lavoro veramente sono serrati, ed è per questo motivo che questa parte di trasmissione sarà registrata. Passiamo quindi alla prima domanda. Volevamo sapere se c'è continuità e quale e come tra l'esperienza passata di Immaginaria e l'attuale, cioè il vostro impegno all'interno dell'iniziativa del Fuori Salone delle Lesbiche che si fa ogni anno a Milano. Ciao a tutte voi e a tutte le donne che ci ascoltano. E sì, forse non ricordiamo mai abbastanza che siamo volontarie, che facciamo tutto quello che facciamo per passione. Poi invece dobbiamo lavorare, perché dobbiamo mangiare, dobbiamo vestirci, e quindi abbiamo un lavoro, diciamo così, ufficiale. E continuità tra le esperienze attuali e immaginarie, anzi tra immaginarie e le esperienze attuali. Sì, hai citato giustamente il Fuori Salone delle Lesbiche. Mi piace anche citare questa cosa strana, se vuoi, per delle lesbiche separatiste come noi, questa bella, devo dire, collaborazione che da 2 anni ormai abbiamo con il Festival Mix di Milano. Sai, Immaginaria è stata un'esperienza unica e forse irripetibile, perché era l'esperienza che è durata dal 93 al 2005, che era giusta per i suoi tempi e necessaria per i suoi tempi. Ora i tempi sono cambiati, anche se non di tanto, come abbiamo visto ultimamente. Però la continuità c'è nel lavoro che facciamo, nei motivi per cui lo facciamo e nei principi in base ai quali lo facciamo. Però magari dopo c'è un attimo di tempo per parlarne meglio. Come seconda domanda volevamo chiederti che senso ha oggi per te lavorare ancora sul linguaggio filmico espresso dalle donne e dalle lesbiche. Allora, ovviamente potrei riempirti di luoghi comuni sulla sensibilità delle donne nel cogliere alcune sfumature della complessità della vita che gli uomini, a meno di grandi e rari artisti, non riescono a cogliere. Oppure potrei dare una sfumatura più politica alla mia risposta, ovvero il nostro DNA porta in sé anni di sfruttamento delle donne, di avvilimento della nostra specificità e di cancellazione della nostra storia. Motivi per i quali non affiderei a nessun altro essere vivente che non sia una donna, e per di più lesbica, il raccontare le nostre storie. Però alzo ancora di più l'asticella e ti dico che quando si ha un'identità di minoranza forte, come vorrei che fosse quella delle lesbiche, allora solo una lesbica può permettersi di parlare di una lesbica, così come solo i neri sono riusciti a parlare dei neri e a riscattarsi in alcuni paesi, pur fiancheggiati da un insieme via via sempre maggiore di bianchi illuminati. In tutta sincerità io ti dico che diffido sempre un po' di chi parla di argomenti che gli vengono raccontati senza averli vissuti sulla propria pelle. È una risposta, la mia, di tipo radicale, lo so, però io sono una persona politicamente radicale e ne sono orgogliosa. E come ultima domanda, ci vuoi dire perché avete scelto come Immaginaria di portare proprio questi film, questi che poi verranno inseriti nella nostra mini rassegna? Che messaggio veicolano questi film? Perché avete scelto proprio loro? Questa è una bella domanda, il messaggio. Sai, quando selezioniamo un film tra le centinaia che cerchiamo in tutto il mondo lo facciamo sempre con molto amore. Quindi i film che con voi proponiamo qui a Roma sono frutto del nostro amore per le donne e per le lesbiche. Un messaggio univoco non c'è mai, e poi io credo che nell'arte ognuna debba e possa cogliere il messaggio che vuole. In generale però il nostro lavoro da 23 anni ormai nel cinema lesbico e femminista indipendente si basa su pochi ma fondamentali principi. Noi vogliamo dare un'immagine positiva di noi e delle nostre vite, ma positivo non vuol dire patinato o di bellezza estetica, vuol dire semplicemente vero, una verità che passa per i nostri vissuti, belli o brutti che siano, ma sempre veri e sempre di riscatto da una cultura oppressiva e discriminatoria. Margherita, ad esempio, il film che proporremo nell'ultimo dei nostri appuntamenti è un film che parla di due donne dalla provenienza sociale molto diversa. Parla di immigrazione clandestina, di sfruttamento della manodopera a buon mercato e di amore, di amore. Oppure il documentario, dove proponiamo la figura di una lesbica incredibile, una ballerina e coreografa che ha completamente reinventato il concetto di ballo, che lei chiama pop action. Una lesbica di cui noi, e credo che le donne che vedranno in tante, spero, il film, noi non sapevamo niente. Ecco, è questo l'obiettivo del nostro lavoro, scoprire insieme alle altre donne delle storie che nessuno ha mai raccontato e forse nessuno racconterà mai, a meno che non siamo noi, proprio noi tutte insieme a farlo. Permettetemi per adesso un saluto in primo luogo a voi, donne del coordinamento lesbiche romane, donne con le quali ho iniziato a fare politica e di questo ve ne sarò sempre grata. E un saluto a tutte le donne che ci ascoltano di nuovo e soprattutto un saluto a tutte le donne che dovranno venire numerosissime a vedere i film, in modo che così magari torniamo e ne vediamo tanti altri insieme e scopriamo tante altre storie da raccontare. Ciao a tutte. Ma guarda Deborah, l'augurio che tu fai, cioè quello di incontrarci ancora e vedere nuove cose, è una nostra, sicuramente una nostra prospettiva. Siamo noi che ringraziamo te e quindi ci sentiamo prestissimo insieme a tante altre donne che abbiano la voglia, la volontà e il desiderio di continuare a condividere con noi questo meraviglioso sogno. Allora, la trasmissione per oggi finisce qui. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento sia venerdì alla serata Che Sbilè, sia sabato alla mini rassegna. E quindi un caro saluto e ci vediamo presto. Ciao. Buonasera a tutte, grazie. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got